Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il corridoio in mezzo alle due file di poltrone rosse non è molto lungo ed è anche lievemente in discesa. È un tragitto facile, ma all'uomo che lo sta percorrendo a passi svelti sembra che giungere sia un'immensa fatica. Le centinaia di persone del pubblico che lo stanno applaudendo sembrano saperlo e forse anche per questo attendono con un misto di commozione e simpatia le sue parole. That's a clever opening. Sono stato in gamba. Signore e signori, sono molto eccitato e commosso. E veramente non so cosa dire perché questa è una cosa tutta nuova. Io sono un tipo da balli e cose del genere. È il solito vecchio discorso di ringraziamento che ogni anno, alla cerimonia degli Oscar, un attore fa con la statuetta appena vinta in mano. È il solito discorso che contiene tutta la retorica, la passione, l'eccitazione di una vittoria che in breve farà il giro del paese, rimbalzerà nei notiziari di tutto il mondo. Tutto normale, quindi. O forse no. Forse mai, come in questo caso, la vittoria dell'Oscar sta salvando una vita. Una vita che stava per andare a rotoli e per la quale una buffa statuetta, alta poco più di 35 centimetri, sembra un'enorme ancora a cui potersi aggrappare per ricominciare. La voce che avete sentito ringraziare per la vittoria di un Academy Award non è una qualsiasi. È The Voice, l'unica assoluta e inconfondibile voce di Frank Sinatra. Frank Sinatra. Il cantante più conosciuto al mondo sta ritirando la statuetta per il suo ruolo come attore non protagonista nel film Da qui all'eternità. È il 1953 e il film in cui interpreta il soldato Angelo Maggio sta ottenendo un successo strepitoso. Non solo per la famosissima scena del bacio fra Burt Lancaster e Deborah Kerr sul bagnasciuga, ma anche per la sofferta interpretazione di Frank. Adesso fai il gradasso, ma quando sarai sul campo con noi abbasserai la cresta. Ma se non vuole tirare di box, non lo potete obbligare di prepotenza. Stiamo giocando a biliardo, ci lasciate in pace. Vuoi che ti rompa il muso, Maggio? No. E allora cerca di impicciarti dei fatti tuoi. Poco prima della cerimonia, i tre figli di Frank, Nancy, Frank Jr. e Tina, hanno regalato al padre un medaglione in oro con una statuetta dell'Oscar in basso rilievo e la scritta «A papà, con tutto il nostro amore, da qui all'eternità». Un buon presagio. Nancy ricorda quando il padre si è abbassato su di lei per baciarla sulla guancia prima di dirigersi verso il palco. È un bacio pieno della commozione e dell'orgoglio di un uomo che finalmente non deve più mostrare solo la sofferenza e la fatica ai propri figli, ma il successo, il riconoscimento, la riscossa. Dopo la premiazione, il figlio Frankie, ricordando la scena della lotta fra Angelo Maggio, il soldato semplice interpretato da Frank, e il crudele sergente Fatso Judson, interpretato da Ernst Borgnine, dice al padre che avrebbe voluto uccidere l'uomo che lo aveva picchiato, ma Sinatra risponde ridendo. Altro che ucciderlo, dovresti baciarlo. È lui che mi ha aiutato a vincere l'Oscar. Nell'eccitazione della serata, Sinatra ringrazia Borgnine per la sua fortuna, ma in realtà sa che la sua interpretazione ha una qualità come mai prima d'ora. Il merito è di un altro uomo che in questo esatto momento sta ricevendo anche lui la statuetta sul palcoscenico dell'Academy Award. Ma prima di conoscere il secondo protagonista della nostra storia, torniamo indietro a quando una minaccia ben peggiore del sergente Fatso Judson sta incombendo sulla vita di Frank Sinatra. È il 12 dicembre del 1915 e Frank sta venendo al mondo. Non ci sono pianti quando Frank nasce. Anzi, c'è un lungo minuto di silenzio, pesante, spaventoso. Il bambino è appena stato violentemente strappato con il forcipe dal dottore perché la mamma è troppo piccola per questo neonato grande e grosso. Lo strumento ha lasciato delle ferite su tutto un lato del volto del neonato, dall'orecchio giù fino al collo. Il bambino non respira. Nessuno sa cosa fare. Solo la nonna Rosa sembra avere un po' di presenza di spirito e prendendo il piccolo dalle mani del dottore lo mette implacabilmente sotto l'acqua fredda fino a quando il bambino finalmente urla con quanto fiato ha nei suoi piccoli polmoni. C'è C'è chi tocca lottare fin dai primi vagiti per stare al mondo, ed è quello che succede al piccolo Frank. Ma la nascita è la prima delle sue vittorie. Le ferite ci mettono più di 3 mesi a scomparire e finalmente Frank può essere battezzato nella chiesa di Hoboken nel New Jersey dai suoi orgogliosi genitori, Antonino e Natalina. Anton Martin e Dolly, i nomi americanizzati dei genitori di Sinatra, sono entrambi arrivati con le famiglie molto giovani in America. Marty dalla Sicilia e Dolly dalla Liguria. Mia madre sempre diceva per questo cugino che era in America che si volevano bene, che da ragazzi giocavano anche assieme, perché come età credo che non era tanta la differenza. Quindi ci parlava sempre, noi entusiasmi erano sempre che ci piaceva sapere qualcosa di questo parente della... Poi, molto prima della guerra, diceva che aveva un figlio che era cantante. A Marty piace tirare di box, ma questo non basta a mantenere una famiglia. Così, dopo tanti lavoretti, finisce per fare il pompiere in pianta stabile. Nonostante sia un uomo tranquillo e riservato, tutti gli riconoscono un senso dell'umorismo corrosivo. Dolly ha altre passioni, o forse solo una: il Partito Democratico. A mia madre piaceva la politica e tutto quello che ho imparato sull'argomento l'ho appreso da lei. La passione di Dolly ha come effetto quello di fare conoscenze importanti, al punto che può permettersi di far nominare il marito capitano dei vigili del fuoco di Hoboken. Ma la politica la occupa a tal punto che è sempre fuori casa. Così Frank passa le sue giornate in solitudine, accudito solo da nonna Rose e da zia Rosalie. Frank è un ragazzino ben disposto, di buon carattere, ma anche un solitario. Forse perché a causa delle sue cicatrici viene preso in giro da tutti i suoi compagni di scuola che lo chiamano Scarface. Alle cicatrici si aggiungono altri motivi di diffidenza, soprattutto provocati dalle ambizioni sociali di Dolly, che non lo aiutano a farsi degli amici. Voleva che stessi bene, che diventassi un gentleman. Credo che le sarebbe piaciuto che indossassi i pantaloni di velluto, solo che per una cosa del genere a Monroe Street avrebbero potuto uccidermi. Durante gli anni di scuola, Frank non si dimostra particolarmente interessato allo studio, tanto da abbandonarlo del tutto prima del diploma. Non gli rimane altra scelta che quella di cercarsi un lavoro. A 16 anni, i tempi delle favole sono appena passati, tanto che ancora ogni sogno sembra l'anticamera della felicità. I sogni di Frank non sono neanche così distanti, giusto dall'altra parte del fiume Hudson. È lì che si arrampicano verso il cielo le guglie dei grattacieli di Manhattan. Avevo forse 16 o 17 anni e desideravo vivere in città. Lo volevo fin da bambino, quando di solito ci andavo con i miei genitori per comprare i regali da Macy's a 10-11 anni. Dopo quelle prime visite nella grande città con i genitori, Frank è sempre più attratto dalla metropoli. A lui piace cantare e il suo desiderio è poterlo fare un giorno nei grandi teatri di New York. Non la pensano allo stesso modo Dolly e Marty. Frank non è riuscito a combinare niente di buono a scuola e questo significa che deve trovarsi un lavoro serio e alla svelta. Ma Frank ha la voce. E quando si ottiene un dono dalla natura di tale portata, non si può far finta di niente. Soprattutto in quegli anni, all'inizio del 1930, gli anni della Grande Depressione. Fuori, per le strade d'America, milioni di lavoratori cercano qualcosa da fare dopo la chiusura delle fabbriche, l'abbandono delle campagne, il crollo della borsa, il collasso dell'intera economia statunitense. Frank ha solo 17 anni, nessuna esperienza, poche capacità e nessuna propensione per il lavoro manuale. Quindi perché sprecare tempo a lottare per una paga da fame quando hai il dono? All'inizio ci prova con piccole esibizioni. Sinatra canta nei nightclub della zona, fa l'intrattenitore durante i meeting politici del Partito Democratico, si dà da fare nei ristoranti. Con un prestito di $65 dai genitori si compra un piccolo impianto sonoro che trasporta in una valigia di finto rinoceronte. Un equipaggiamento che gli dà un tono. E le sue esibizioni iniziano a piacere. Frank piace non solo al piccolo pubblico che segue le sue interpretazioni. Presto scopre di far colpo anche sulle donne. Non è proprio questa gran bellezza Frank Sinatra, ma il suo volto affilato, quasi aguzzo, è illuminato da grandi occhi azzurri e dal sorriso di uno che ci sa fare. Il ragazzo di Hoboken lo capisce fin troppo presto e ne approfitta. Never saw the sun shining so bright, never saw things looking so right. Notice in the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies. from now on. Sono proprio gli occhi azzurri e il sorriso, questa volta incerto, che si notano sulla foto segnaletica scattata nel 1938 dai poliziotti che arrestano Frank per un reato che oggi non esiste più: frequentare una donna sposata. Questa volta, una delle tante conquiste di Frank lo ha messo nei guai. Ma quello del 1938 è solo l'incidente di percorso di un ragazzo giovane e focoso. In realtà Frank ha già trovato la sua ragazza ideale. È una fosa estate del 1934, quando, ospite della zia Josie, Sinatra incontra la 17enne Nancy Rose Barbato. Nancy è carina, anche se non è una bellezza. E ha qualcosa di così dolce e rassicurante che apre una breccia nel cuore di Frank. Quell'estate i giorni passano pigri e pieni di promesse, e la sera è il momento della serenata. Frank, accompagnandosi con l'ukulele, canta per Nancy le sue prime canzoni d'amore. Una sera i due ragazzi vanno insieme ad ascoltare un concerto di Bing Crosby. È una rivelazione. Ascoltando il crooner più alla moda del momento, Frank non ha più dubbi. Quella è la sua vita. Un palco, un microfono, la sua voce e un pubblico adorante. Il vero passo avanti verso la realizzazione del sogno avviene quando Sinatra partecipa insieme al gruppo Hoboken 4 a un noto show canoro su una radio nazionale, il Major Bowes, il più famoso talent show dell'epoca. We have now the Hoboken Four. They call themselves a singing and dancing fool. Who speaks for the group? I will. I'm Frank. We're looking for jobs. How about it? Everyone that's ever heard us liked it. Mi chiamo Frank Maggiore, stiamo cercando lavoro, che ne dice? Così il giovane Sinatra si rivolge al maggiore Bowes, mentre più di 40.000 radioascoltatori danno il loro voto al quartetto di Hoboken. Qualcosa dell'atteggiamento del ragazzo, oltre all'innegabile successo di pubblico ottenuto, convince il maggiore Bowes a mettere il gruppo sotto contratto per 6 mesi. Si tratta di girare per i palcoscenici americani, $50 di paga a settimana, i pasti e un'incredibile esperienza, tutto compreso nel pacchetto. Cantando in tour con gli Hoboken 4, Frank comprende di avere veramente la stoffa del cantante e ben presto lascia il gruppo per provarci da solo. Deve però attendere il 1939 per iniziare a vedere i frutti del suo impegno. Conosce il direttore d'orchestra e trombettista Harry James, che lo assume per cantare con la sua band. La paga è di $75 a settimana e l'eccitazione infinita. C'è un unico problema. James vuole assolutamente cambiare il nome di Frank. Sinatra è troppo italiano, meglio Frankie Satin, raffinato e scivoloso come la seta, con giusto un tocco di Francia che fa sempre chic. Ma Frank non ci sta e James cede con l'eleganza del gentiluomo del sud. Harry James has one of the most original styles in current dance. And in plain circles, his orchestra is generally considered to be among the most popular in the country. Romance rules the airwaves once again as we hear the voice of Frank Sinatra and Harry James' appealing version of the popular ballad, Till You. Frank è finalmente felice. Tutto sembra andare per il meglio, anche l'amore. Nello stesso anno, dopo 4 anni e mezzo di fidanzamento, lui e Nancy pronunciano il fatidico sì nella chiesa di Nostra Signora dei Dolori di Jersey City. Come regalo di matrimonio, la sera prima, Frank dona a Nancy una registrazione artigianale di una sua interpretazione, Our Love, il nostro amore. Nancy segue Frank nel suo tour con l'orchestra di Harry James. Non sempre le cose vanno a gonfie vele. I soldi non sono moltissimi e presto Nancy si scopre incinta. Ma sono giovani, pieni di entusiasmo e molto felici. Alla fine i soldi spuntavano sempre fuori. Ma per molto tempo ci siamo nutriti solo di panini con cipolla fritta. Alla Rustic Cabin, una grande sala da ballo sulla statale vicino ad Alpine, nel New Jersey, c'è una serata importante. Il famoso Tommy Dorsey, direttore di una delle orchestre più importanti degli anni 30, sarà ospite della direzione. Frank decide che è la sua grande occasione. Alla Rustic Cabin è di casa, ci ha lavorato per un po' come intrattenitore, conosce tutto il personale. Si mette d'accordo con il capo della band che suona quella sera e quando Tommy entra in sala, lascia Nancy al tavolo e fa un'improvvisata, cantando un pezzo. You're a new man, better than Casanova at his best. With a new heart, a brand new start, I'm so proud I'm busting my vest. So you're the guy who turned out a lover. Yes, I'm the guy who laughed at those blue diamond rings. One of those things. Lord, look at you now. Il piano funziona. A Dorsey piace quel ragazzo capace non solo di cantare bene, ma anche di imporre un suo gusto originale e di ammiccare con stile verso il pubblico. Quando di lì a poco il frontman della sua band lascia il posto, si ricorda di Frank e lo ingaggia. Sinatra ha un contratto di 2 anni firmato con Harry James, ma l'amico lo capisce e straccia il patto. È quello che hai sempre voluto. Fai solo in modo che ti paghi più di quanto abbia fatto io. È il 1940, è l'era delle grandi orchestre di swing e nel suo massimo fulgore, come ci racconta un documentario della serie Jazz Legends. Mentre gli Stati Uniti si stavano tirando fuori dalla Grande Depressione, iniziarono a fiorire le grandi band e la follia della danza si propagò per il paese. In mancanza di potenti microfoni, le orchestre trovarono altri modi per farsi sentire nelle grandi sale da ballo. Aumentarono gli orchestrali e così aumentò anche il volume. Le meticolose orchestrazioni unite a una potente sessione di fiati erano alla base di armonie originali che fecero sensazione, creando il suono delle grandi orchestre. Lo swing era in. Swing was the thing. Ognuna delle grandi orchestre aveva un suo sound riconoscibile e riconducibile ai suoi direttori. Glenn Miller, Benny Goodman, Artie Shaw. Cosa significa? Ce lo spiega Ray Anthony, direttore musicale di una serie televisiva molto in voga con l'aiuto dell'orchestra del suo show. Sapete, le grandi orchestre venivano identificate grazie al loro sound. Eccovi qualche esempio. Billy May creava un suono appetitoso con il sax che faceva pressappoco così. Glenn Miller aggiunse il clarinetto ai suoi sassofoni, creando un magnifico sound. Così, mentre la Seconda Guerra Mondiale infiamma l'Europa, negli Stati Uniti ancora pacifici lo swing infiamma i giovani americani, che ballano grandi successi come In the Mood, Stomping at the Savoy, Chattanooga Choo Choo. Ballare, volteggiare in una grande sala illuminata, un vestito lungo con la gonna che si apre come la corolla di un fiore, le braccia del partner che reggono saldamente la vita delle ragazze e con pochi movimenti sicuri imprimono una direzione per fluire in mezzo ad altre decine di coppie che godono dello stesso attimo di abbandono in una timida intimità cullata dalle note della musica. In un'epoca dove le occasioni di divertimento sono poche e non particolarmente variate, ballare diventa la distrazione principale di una generazione che ancora non conosce la guerra se non attraverso le notizie via radio. Frank Sinatra diventa improvvisamente l'interprete principale di questa generazione. La sua voce, dal timbro purissimo e giovane, canta con sentimento canzoni diventate dei classici, ammiccando con lo sguardo alla sala. Le ragazze si sentono leggermente turbate da quegli occhi, mentre i ragazzi si trovano complici di quel crooner che li aiuta a sentirsi conquistatori. La vita sembra semplice e piena di promesse sulla pista da ballo, e il meglio deve ancora arrivare. Destini incrociati. A Destini incrociati è il 1940, l'era dello swing, e Frank Sinatra è appena entrato in una delle grandi orchestre dell'epoca, quella di Tommy Dorsey, famoso trombonista. La collaborazione di Sinatra con Dorsey dura 2 anni, durante i quali Frank impara moltissimo, ma soprattutto inizia a costruirsi una popolarità che lo seguirà per tutto il decennio. Gli Stati Uniti sono oggi nel bel mezzo di uno di quei notevoli fenomeni di isteria di massa che accadono di tanto in tanto in questa parte dell'Atlantico. Mr. Frank Sinatra, un giovane e amabile cantante di canzoni molto popolari, sta ispirando una straordinaria devozione personale da parte di migliaia di giovani, e specialmente di giovani ragazze fra i 12 e i 18 anni. Così intitola un articolo apparso sul quotidiano inglese The Guardian nel gennaio del 1945. La flemma inglese non riesce a rendere a pieno il delirio che ogni esibizione di Frank Sinatra scatena fra la popolazione di Bobby Soxers, gli adolescenti americani che indossano la classica divisa fatta di mocassini, calze alla caviglia, ampie gonne sotto il ginocchio per le ragazze e calzoni beige arrotolati per i ragazzi. una divisa che persino l'elegantissimo Cary Grant è costretto a indossare quando recita nell'incredibile successo cinematografico di The Bachelor and the Bobby Soxers, tradotto in italiano col titolo di Vento di primavera del 1947. Hello! Come va la vita, gentaglia? Dick! Pronti, cocca, salpiamo? Ecco. Senti, lei mi ricorda un tale. Che tale? Uno che ci sa fare. E sa far che? Quello che fa lei. Lei chi? Lei tu. E che faccio? Mi ricorda un tale. Ma che tale? Uno che ci sa fare. E sa far che? Buongiorno. E scemo ha bevuto. Che cosa? Gli anni 40 vedono trionfare Sinatra. Mentre gli uomini della sua età vanno in guerra, gli Stati Uniti, dopo l'attacco di Pearl Harbor, entrano nel conflitto alla fine del 1941. Lui, riformato alla visita medica a causa dell'orecchio rovinato alla nascita, miete successi e guadagna moltissimi soldi. 23 presenze nella top 10 musicale fra il 43 e il 44 e l'interpretazione di commedie musicali di grande successo. Tutto sembra andare per il meglio, ma accanto ai trionfi iniziano le prime critiche. Frank viene accusato di limitare il suo contributo alla guerra a qualche sporadica esibizione per le truppe e alla partecipazione a qualche commedia musicale a sfondo bellico, la più famosa delle quali è Due marinai e una ragazza, con Gene Kelly. Lo sai, Clarence, è tremendo dover sbarcare lasciando qui i nostri compagni in magliette e mutande per andare a finire fra le fruscianti sete di bellissime donne. Certo, c'è bisogno anche di svago durante la guerra, ma persino a Hollywood si sente bisogno di serietà, di raccontare quello che sta succedendo al fronte. E fra il 1942 e il 45 sono più di 500 i film su tema bellico prodotti in America. Il governo di Washington sa perfettamente che ogni film può essere d'aiuto alla causa e ogni sceneggiatura viene accuratamente vagliata allo scopo di comunicare concetti precisi. Questo film ci aiuterà a vincere la guerra, contribuisce alla comprensione del conflitto. Se è un film di evasione, non distorcerà la realtà dando una cattiva immagine dell'America, e così via. Al cinema ogni spettacolo ha un obiettivo mirato. Si producono film che incitano alla resistenza, film a sostegno del reclutamento, film contro i giapponesi o contro i nazisti. Sono tanti i registi di Hollywood che si sentono coinvolti. Fra i tanti sono soprattutto i cineasti di origine europea che sentono la necessità di raccontare la guerra che sta sconvolgendo i loro paesi d'origine. L'inglese Charlie Chaplin con il suo capolavoro Il Grande Dittatore. William Wyler, nato a Mulhouse in Francia, con La Signora Miniver. Anche i Boia Muoiono del viennese Fritz Lang e il famosissimo Casablanca dell'ungherese Michael Curtis, dove viene cantata orgogliosamente la Marsigliese a scapito dei nazisti occupatori. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. Fra questi registi c'è anche un altro giovane di origine viennese che per amore del cinema si è trasferito da anni negli Stati Uniti. Dopo aver lavorato come aiuto regista per alcuni documentari nel 1944, proprio mentre pochi studi più in là il celebre Frank Sinatra sta cantando per il musical Due marinai e una ragazza, il giovane austriaco realizza il suo primo film importante, La Settima Croce. Una storia che denuncia l'indifferenza dei tedeschi nei confronti dei prigionieri dei campi di concentramento, che ottiene addirittura 9 nomination agli Oscar. È la prima volta, ma non l'ultima, che nel grande teatro degli Academy Awards risuona il suo nome. Fred Zinnemann. Zinnemann sa molto bene che l'America non solo gli ha regalato la possibilità di fare il lavoro che ha sempre sognato fare, ma molto probabilmente gli ha salvato anche la vita. Alfred Zinnemann nasce a Vienna in una famiglia ebrea. Il padre Oscar è un medico importante, la madre si chiama Anna. Sin da bambino Alfred dimostra un grande amore per la musica. Suona il violino e il suo desiderio più grande è quello di diventare un famoso concertista. Ma per accontentare i genitori si iscrive alla facoltà di legge di Vienna, dove si laurea ad appena 20 anni. Ma è proprio durante gli studi che per la prima volta si imbatte nel cinema. Con alcuni amici impara la tecnica della cinepresa e alla fine dell'università decide di andare a Parigi a seguire un corso alla scuola tecnica di cinematografia. Dopo soli 2 anni è già a Berlino come assistente in un film scritto da Billy Wilder e diretto da Robert Siodmak, due ragazzi tedeschi che come lui faranno fortuna in America. È la Berlino della Repubblica di Weimar, un'epoca di incredibile ricchezza culturale. Fiorisce l'arte secessionista con Gross e Kokoschka. Thomas Mann riceve il premio Nobel per la letteratura. Brecht ha completato la sua opera da 3 soldi. Forse Zinnemann condivide l'entusiasmo di un giovane Elias Canetti, lo scrittore di origine bulgara, che appena giunto in città dall'Austria scrive la sua autobiografia Il frutto del fuoco. Mi muovevo in un caos, ma un caos che appariva inesauribile. Ogni giorno giungeva a Berlino qualcosa di nuovo a cacciar via il vecchio, che a sua volta era stato nuovo 3 giorni prima. Non è difficile immaginare un giovane Zinnemann di appena 22 anni trascorrere le sue giornate con amici a parlare di tecnica cinematografica, di sogni, di aspirazioni. È la Berlino del film cabaret di Bob Fosse, per intenderci, dove centinaia di Sally Bowles, il personaggio interpretato da Liza Minnelli, si esibiscono per i giovani artisti come Zinnemann e i suoi amici che attendono pazientemente la fine della canzone per invitarli a bere al loro tavolo. International Sensation Fräulein Sally Bowles! Ma nonostante l'ambiente berlinese, Zinnemann, come altri suoi amici, comprende che il cinema, quello vero, si fa in America e lascia Berlino per imbarcarsi negli Stati Uniti. Il giorno in cui Zinnemann attracca al molo di New York è quello del crollo di Wall Street. Non è di grande auspicio, ma lui si sente ottimista. Ha una lettera di presentazione per Carl Laemmle, il capo degli studi della Universal, che in effetti gli trova subito una comparsata come soldato tedesco sul set del film Niente di nuovo sul fronte occidentale di Lewis Milestone, da dove però viene cacciato per un alterco con l'assistente alla regia. Ma un ragazzo delle sue capacità non lo si lascia di certo scappare. In breve Zinnemann diventa assistente alla regia in molti film importanti, in cui affina le sue capacità e inizia a posare le basi di quella che diventerà la sua personale teoria cinematografica. Nonostante in breve tempo sia destinato a diventare uno dei grandi registi dello star system hollywoodiano, Zinnemann mantiene un atteggiamento distaccato dal mercato, scegliendo solo film che gli permettono di dimostrare la sua filosofia ed estetica personale. Mi ha sempre interessato il problema dell'individuo che lotta per mantenere l'integrità personale e il rispetto di se stesso. Forse è una frase premonitrice. Premonitrice di un incontro. Quello fra Fred Zinnemann, regista austriaco che ha trovato in America una nuova dignità, e Frank Sinatra, figlio di immigrati italiani che all'inizio degli anni 50 sta lottando per mantenere il rispetto di se stesso. Nel 1950 Frank ha 35 anni e nonostante i grandi successi la sua stella sta iniziando ad appannarsi. Gli scade un grande contratto cinematografico e per questo si vede costretto ad accettare per soldi scritture su scritture che lo impegnano a dover fare anche 3 spettacoli al giorno. Un giorno, mi ricordo era sabato, feci addirittura 11 concerti. Iniziai alle 8:10 e finii alle 2:30 di notte. È troppo anche per lui. Improvvisamente le sue corde vocali crollano. Durante un'esibizione, un'improvvisa emorragia alla gola gli impedisce di continuare a cantare. La stanchezza si rivela troppa per la sua voce e per un drammatico periodo Sinatra crede che non potrà più lavorare. È la fine. Sinatra non sa fare altro, non vuole fare altro. Cantare per lui è parte della sua vita. The Voice non può spegnersi così, mettere a tacere il suo dono, la sua unica risorsa. Anche a casa le cose non vanno meglio. La nascita di 3 figli, Nancy, Frank Jr. e Tina, non ha consolidato il matrimonio con Nancy, al contrario. L'enorme successo di Frank, sebbene abbia portato a casa il benessere, ha anche avvicinato Sinatra a un mondo scintillante, che mette in ombra la tranquilla pace borghese della famigliola tirata su dalla moglie. E poi a Hollywood Frank conosce Ava. Ava Gardner. La donna più bella del mondo. Quando i due si incontrano è subito attrazione. Iniziano a frequentarsi e in breve tempo diventano amanti. Frank decide di chiedere il divorzio a Nancy per sposare la Gardner. Ma Ava non ha il carattere, la pazienza e la comprensione della ex moglie. I conflitti sono all'ordine del giorno, amplificati dal momento d'oro che l'attrice sta vivendo nella sua carriera e dall'altra parte dalle difficoltà di Sinatra. La situazione è così squilibrata che Frank, nel 1952, tenta persino il suicidio a New York, inalando del gas dalla cucina. Viene salvato, ma mai come in quest'estate del 52 la sua vita è così priva di speranza. È in questo periodo che gli capita di leggere un libro intitolato Da qui all'eternità di James Jones e ne rimane così colpito da decidere all'istante di volere interpretare uno dei personaggi, il soldato semplice Angelo Maggio. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed? Well, remember when you're rich that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo a Hollywood nel 1952. Fred Zinnemann, regista di origine austriaca, ha appena ricevuto la sua seconda nomination agli Oscar per la regia di Mezzogiorno di Fuoco. Il film è uno dei western più atipici mai prodotti, privo di violenza, di sparatorie, di scontri mortali, se non nelle ultime scene. Al contrario, è una sorta di thriller psicologico in cui Gary Cooper, che interpreta lo sceriffo Will Kane, abbandonato da tutti, attende la sfida contro il bandito Frank Miller. Every swing of the pendulum, with every second, a man's life ticked away. Never have so few moments held such excitement. Miller! Forte dei 4 premi Oscar presi dal film, Zinnemann sta per girare un nuovo film tratto dal romanzo Da qui all'eternità. Nel cast ci sono già nomi eccellenti. Montgomery Clift, con cui ha già girato Odissea tragica, Burt Lancaster, Deborah Kerr, Ernst Borgnine. Manca ancora chi farà la parte di Angelo Maggio. Al provino si presentano Eli Wallach e Frank Sinatra, un bravo ragazzo ebreo e un bravo ragazzo italiano. La scelta è scontata. Nell'aprile del 1953 iniziano le riprese nelle Hawaii. L'atmosfera è scanzonata, come racconta uno degli interpreti, Burt Lancaster. Io, Deborah Kerr, Frank e Monty eravamo seduti nella parte anteriore dell'aereo e all'arrivo Frank e Monty erano già sbronzi. Da allora, ogni notte, dopo il lavoro, ci incontravamo in camera di Frank, che aveva un frigorifero con i bicchieri in freddo e lui si metteva a preparare i martini. Nonostante i martini, sotto l'abile direzione di Zinnemann, Frank Sinatra riesce a infondere nella sua recitazione una qualità che non ha mai avuto prima. Forse capisce che questa è la sua grande occasione e che è il momento di giocarsi il tutto per tutto. Angelo, che hai fatto? Lo sapevo che ti avrei trovato qui. Ci sono riuscito. Sono riuscito a scappare. Come avevo detto, dentro un camion vuoto sotto il telo. Mi hanno portato fuori. È andato tutto bene. Solo che lo sportello si è aperto a 1 chilometro da qui e io sono caduto dal camion. Che rotolone ho fatto. Sono sconquassato. Frank supera se stesso. Interpretando Angelo, si regala un posto meritato fra i grandi attori del momento, ma soprattutto una nuova vita. Scegliendolo, Zinnemann, che non ama gli eroi nel suo cinema, vede qualcosa negli occhi di Frank che nemmeno il cantante conosce di se stesso. Uno sguardo che non ha più la fierezza del vincente, che ha perso la superiorità di chi conosce solo successi. L'ultimo periodo di inferno trascorso da Sinatra ha come aggiunto una qualità nuova al suo carattere. La sfrontatezza è passata per lasciare posto a una nuova umiltà ed è quella che serve a Zinnemann per il suo Angelo Maggio. Il film esce nell'agosto del 1953, incassando più di 80 milioni di dollari. And who pleases the winner? The winner is Frank Sinatra. Il 25 marzo 1954, Hollywood vede il trionfo di Da qui all'eternità, che riceve 8 premi Oscar su 13. Fra questi, oltre quello per Frank Sinatra, c'è anche la vittoria per la miglior regia, che Fred Zinnemann ritira emozionato. Alla cerimonia Frank è accompagnato solo dai suoi figli. Ava non c'è, i due hanno chiesto la separazione. Ma dopo la vittoria dell'Oscar, anche la solitudine sembra meno dolorosa. Ormai si tratta di fare piazza pulita. Uno sconfitto Frank Sinatra ha avuto il coraggio di interpretare la figura di uno sconfitto e riesce a uscire incolume dall'esperienza. Oggi c'è solo da ricominciare. E Frank decide di ricominciare con la musica. Dal 1953 inizia a costruire il suo grande rilancio. Nuova band, nuovi produttori, nuovi arrangiatori. Una delle prime canzoni è una sorta di dichiarazione. Le parole dicono: tengo il mondo a laccio, seduto su di un arcobaleno. Tengo il laccio intorno a un dito. Che mondo, che vita, sono pieno d'amore. Life's a wonderful thing, as long as I hang on to the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. Here we go, don't you know, you can never let go. Got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I am in love. Zinnemann, dal canto suo, continua a fare film e a guadagnare nomination e premi Oscar. Nel 1959, Storia di una monaca con una splendida Audrey Hepburn riceve 8 nomine. L'anno dopo riceve altre 5 nomination con I Nomadi e poi 6 vittorie con Un uomo per tutte le stagioni del 66. E un secondo Oscar alla regia con Giulia del 77, con Jane Fonda e Vanessa Redgrave. Ognuno di questi film è a suo modo una presa di posizione morale di Zinnemann nei confronti delle iniquità del mondo. La denuncia del maccartismo in Da qui all'eternità, dove il soldato Pruitt, interpretato da Montgomery Clift, viene messo nella lista nera per il suo rifiuto di lottare sul ring. In Storia di una monaca e Un uomo per tutte le stagioni, il dilemma morale del protagonista si scontra invece con la necessità dell'obbedienza all'ordine esterno. In molti dei suoi film, come in Mezzogiorno di fuoco, viene inquadrato un orologio e ogni secondo che passa segna la lotta che il protagonista deve sostenere fra se stesso e quello che sta per succedere. È un dilemma che Zinnemann riesce sempre a rendere intensamente anche grazie al suo incredibile fiuto per gli attori, che spesso sono sue scoperte, come Monty Clift, Marlon Brando e Meryl Streep. In un certo senso è una scoperta anche Frank Sinatra, che fino ad allora non aveva mai interpretato ruoli drammatici. Grazie a Zinnemann, Frank scopre di essere un bravo attore e di avere un grande amore per la recitazione. Recitare all'inizio è come quando reciti da bambino, ma poi cresci e improvvisamente diventa una cosa seria e tu diventi quello che sta recitando. Quando mi immergo in una parte, tutte le volte mi sento come se veramente fossi quel tizio. Dopo Da qui all'eternità, Sinatra interpreta quasi una cinquantina di film e sfiora un secondo Oscar per la sua interpretazione nel film di Otto Preminger, L'uomo dal braccio d'oro. Dopo la crisi, Frank Sinatra non si è mai più fermato. Si calcola che abbia venduto più di 600 milioni di dischi e che abbia inciso più di 2000 canzoni. Mi piace cantare, perché è ancora una sfida per me. Solo dopo 4 infarti, un ictus e un anno e mezzo di agonia, Frank Sinatra smette di combattere il 14 maggio del 1998. Le sue ultime parole sono: I'm losing, sto perdendo. When I'm back on top in June, I said that's life, and as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.